Allora, inizierei in modo formale. Questa è la presentazione del libro Le pieghe del corpo, che è una raccolta a cura di Antonio Donato, Leonardo Tonelli, Edoardo Galac, edito da Memesis. Si tratta, di una raccolta di diversi contributi, che partono da delle discussioni nate in un incontro che si è tenuto a Bologna nel 2018, che aveva come titolo Cosa può un corpo? Ma che in realtà possiamo dire è la prima riduzione su carta stampata delle riflessioni nate all'interno dell'associazione LEIB di Bologna. E in realtà anche dei vari collettivi che sono nati intorno a questa associazione. Riflessioni che nascono da un'inchiesta sia accademica che militante, su quegli aspetti che hanno a che fare con la disciplina dei corpi, come lo sport, l'educazione fisica, in generale gli stili di vita che vengono normati attraverso queste pratiche. E il rapporto tra salute del corpo e disciplinamento del corpo. Quindi io prima di iniziare con la presentazione vera e propria, chiederei ad Antonio e Leonardo di fare una presentazione, insomma, di loro stessi e del progetto politico da cui nascono queste riflessioni. Sì, ciao a tutti e a tutte, io sono Leonardo dell'associazione LEIB e vabbè, vi presento velocemente, magari presento anche un po' l'associazione, due parole. E, la nostra associazione ha sede a Bologna, in particolare tra la Palestra Popolare Gino Milli e il Circolo Arci Guarnelli di Bologna, sono un po' diventate la nostra sede, diciamo il posto dove facciamo molte delle nostre attività, e in realtà l'associazione viene da un percorso di un collettivo studentesco che è nato all'interno delle scienze motorie ormai diversi anni fa, e poi è migrato fino a diventare quello che è oggi appunto l'associazione. Diciamo il nostro punto di interesse ruota attorno al corpo, un po' anche come il libro stesso. Da diversi punti di vista, quindi dal punto di vista sportivo, quello educativo, pedagogico, che magari può essere più legato alla scuola, quello sanitario, diciamo, legato a tutti i discorsi che si fanno sulla salute, sul corpo, anche legati appunto all'attività fisica, che poi hanno trovato spazio anche nel libro, nell'ultima parte. Appunto, vari punti di vista che legano la nostra associazione, quello che facciamo, anche con una rete internazionale che si è costruita nel corso degli anni, che parte un po' dai nostri rapporti con alcuni ricercatori e ricercatrici brasiliane, per alcune esperienze che abbiamo fatto appunto in Brasile negli anni scorsi, e che legano un po' Bologna e Porto Alegre in particolare, e che poi si è allargata inserendo appunto alcuni di quelli che sono gli autori, Edoardo che è uno dei curatori insieme a noi, Nicola che vive e lavora in Inghilterra, quindi Argentina, Inghilterra, Italia, Brasile, vari punti di vista anche geograficamente diversi su queste tematiche e anche appunto da aree di studio e saperi diversi. Sì, io sono Antonio e anche io faccio parte della protezione LEIB. Integro una cosa, riprendo quello che diceva prima Leo, e rispetto alla nostra associazione che diciamo, ha come progettualità soprattutto quella di lavorare sia nel campo diciamo, dei saperi sia su quello delle pratiche, perché non vediamo dire, questa dicotomia che come ci viene presentata dal fatto di lavorare sui saperi, quindi un campo intellettuale rispetto a un campo pratico in cui bisogna invece solamente saper fare. Questa è una questione abbastanza particolare, perché il mondo dal quale proveniamo, che è scienza motoria, è soprattutto un campo in cui manca di riflessioni. Quindi fondamentalmente si va sempre su una su anche delle riflessioni dominanti che vanno verso l'oggettivazione del corpo, per esempio, quindi anche attraverso tutte quelle che sono, per esempio, i paradigmi neuroscientifici, la biomedicina generale, e manca quindi di riflessione. Quindi diciamo che si va verso sempre verso l'assoggettamento a paradigmi dominanti, quindi non si è mai espressa la vera potenza del corpo da queste discipline, diciamo. Dall'altra parte, anche nelle pratiche, ci interessa sempre mettere in discussione le pratiche, sempre cercare di capire quello che stiamo provando a fare per uscire fuori da quella riproduzione automatica che spesso le pratiche, soprattutto nella nostra disciplina, soprattutto nell'ambito sportivo, si fanno perché si sono sempre fatte, e spesso, questa è una cosa che vorrei sottolineare, riproducono discriminazioni e marginalizzazione di alcune soggettività, che fanno vedere un po' come funziona poi da un punto di vista disciplinare anche lo sport stesso. Quindi proviamo sempre a ragionare su questi due piani insieme. Quindi il libro è anche frutto un po' di questo ragionamento, sempre su due piani, pratiche e teorie. Ah, direi che sicuramente questo, cioè, si evince molto bene dal libro, che è appunto composto da capitoli scritti da autori differenti. Quindi c'è una prima tua introduzione, l'introduzione di Antonio, poi una serie di capitoli con diversi punti di vista, ma che secondo me partono anche da diversi punti di vita degli autori, e poi una chiusura collettiva, appunto, che diceva anche Leonardo. Quindi, appunto, io vi chiederei anche un po' di presentare brevemente i diversi capitoli, presentando anche brevemente gli autori dei capitoli, perché c'è questa differenza di punti di vita dei diversi autori. Il libro, sì, è praticamente quello che abbiamo definito nell'introduzione, veramente un caleidoscopio, perché abbiamo provato a vedere lo stesso campo, diciamo, di ricerca, quindi quello della corporeità, in particolar modo dettato dal termine, dettato dalla domanda non tanto cosa è un corpo, quindi nel tentare di oggettivare questo oggetto, diciamo, delle scienze, ma sempre porci la questione del cosa può un corpo, quindi cercare di indagare la potenza, la resistenza che ha poi nelle diverse pratiche. E ha un, diciamo, è un caleidoscopio, perché il nostro tentativo non è quello di fare un ragionamento disciplinare, che poi spesso cadono anche in ragionamenti di corporazione, quindi non è un ragionamento di come dire, docenti di scienze motorie o afferente solo a un campo, ma è un ragionamento politico che vuole superare anche le discipline. Allora, anche all'interno del libro stesso si è provato a ragionare, e all'interno del convegno e delle nostre discussioni più ampie, diciamo, si prova sempre a ragionare su più interfacciandosi in maniera interdisciplinare, transdisciplinare. Quindi viene fuori da percorsi che vengono da filosofia, sociologia, pedagogia. Infatti la cosa anche casuale, in realtà ci siamo accorti che ogni autore proviene da una diversa disciplina, diciamo, per come è posta in maniera accademica. E rispetto ai singoli diciamo capitoli, oltre alla mia introduzione c'è una riflessione molto interessante che introduce, diciamo, all'argomento del corpo nella filosofia di Gianluca, che ha un approccio ecosofico, quindi attraverso, diciamo, una problematizzazione del corpo sia rispetto al rapporto corpo-mente, sia al rapporto con altri corpi e sia nel rapporto con l'ambiente, che tra l'altro è particolarmente interessante anche alla luce di quello che sta succedendo in questi mesi. Gianluca De Fazio, giusto? Cosa? Gianluca De Fazio. Pazzo, sì. Poi c'è un capitolo di Nicola De Martini, che invece va ed è un'etnografia che va a indagare alcune pratiche che, parkour di capoeira all'interno del contesto urbano di Torino, mettendo in luce tutta una serie di controcondotte che le soggettività mettono in campo anche per la riappropriazione degli spazi. Su questo è molto interessante la questione della continuità che hanno i corpi rispetto agli spazi e anche la possibilità di trasformare gli spazi fisici. Poi abbiamo il lavoro di Edoardo Galac, che è anche curatore del libro, su una genealogia rispetto al concetto di corpo che ha assunto all'interno di alcune, soprattutto nel campo dell'educazione fisica, e gioca molto su, da una parte, l'idea del corpo come oggetto, dall'altra anche tutto quello che sono magari le svolte linguistiche che di fatti pongono il corpo come un qualcosa di, di non materiale, ecco, mettiamolo così, e quindi gioco un po' su questa cosa provando a interagire con queste due correnti e provando un po' ad avanzare un ragionamento anche oltre. E poi c'è invece un saggio di Alessandro Bortolotti che è sulle logiche del gioco fondamentalmente, ed è una lettura attraverso la prassiologia e delle logiche che intercorrono dentro il gioco e fuori dal gioco. Questo è particolarmente interessante secondo me anche per chi pratica sport popolare, perché mette proprio in luce come alcune logiche all'interno dello sport poi di fatto riproducono alcune logiche sociali un po' più ampie. E quindi bisogna sempre interrogarsi e cercare di problematizzare quello che si sta facendo a partire anche dal rapporto che si ha dentro i nostri spazi anche sportivi con il fuori, quello che è la società. E poi c'è l'ultimo saggio che parlerà meglio Leonardo, che è un collettivo di professori brasiliani che mette al centro la questione della salute. E magari poi di questo ne parla meglio Leonardo, visto che è anche centrale, come argomento in questo periodo. Sì, direi che la questione in generale, cioè, mi focalizzerei anche appunto su questo punto del rapporto attività fisica, salute, un po' quello che viene trattato nel libro, ma anche un po' quello che era nato da una discussione che abbiamo già fatto con voi insieme anche alla palestra popolare della Polveriera, del Next Emerson, su come questo rapporto è anche un po' cambiato con la pandemia in corso. Quindi se Leonardo, cioè, puoi un po' tirare le file di questo punto. Sì, diciamo che un po' tutti i capitoli, anche partendo dal titolo del libro, cercano di andare a vedere appunto da differenti angolazioni, punti di vista, quali sono quelle pieghe, quei punti in cui si possono forzare anche le dicotomie che conosciamo fra oggetto e soggetto, natura e cultura, che interessano il corpo, per appunto andare a cercare delle possibilità, delle potenzialità di trasformazione e anche di resistenza. Insomma, noi partiamo dal percorso di Leib, il corpo che resiste, e anche qua siamo andati a vedere quali erano appunto quei percorsi anche all'interno della disciplina delle scienze motorie, dell'educazione fisica, nel corso della storia, che erano andati un po' a forzare quel concetto di corpo oggettivato e a tentare di produrre una trasformazione appunto sociale sia nei saperi quanto nelle pratiche. Uno di questi percorsi che abbiamo individuato e che appunto abbiamo conosciuto attraverso diverse esperienze che ci hanno portato a contatto col Brasile è quello della salute collettiva, che è un campo di saperi tipicamente brasiliano, nato in Brasile in un'epoca storica abbastanza significativa, quindi alla fine della dittatura militare, quando appunto attraverso un processo che poi ha portato a riscrivere la Costituzione, alla creazione di un sistema sanitario pubblico universale, anche un po' sull'onda di quello che è stato poi quello, la creazione del sistema sanitario italiano, che ha contribuito già allora a creare un laccio, un legame tra i due paesi. La salute collettiva vuole andare a decostruire in maniera critica tutto quello che riguarda la salute e appunto anche il corpo, no? Nell'incontro fra salute collettiva e scienze motorie, educazione fisica. E quello che abbiamo voluto fare con l'ultimo capitolo, che è un po' riprende dall'esperienza che ho fatto a Porto Alegre, appunto, di ricerca durante un master che ho fatto qualche anno fa, in cui ho passato 2 anni a Porto Alegre collaborando con questo gruppo di ricerca che poi mi ha aiutato a costruire il capitolo con Daniele Canavese, Marzia e Alessandra. Prendere questi 3 elementi, corpo, salute e movimento, e analizzarli alla luce del paradigma biomedico, che è quello che conosciamo meglio, che appunto disciplina tutto quello che riguarda il corpo e il movimento, e alla luce di un paradigma più complesso che prova a uscire da queste dicotomie e a vedere, a provare a immaginarsi quali sono le potenzialità del corpo in movimento rispetto alla salute, se non lo restringiamo in una visione appunto biodeterminata, una visione di controllo e una visione che vede sostanzialmente la salute come opposta al concetto di malattia e come strettamente legata al corpo biologico. Quello che è interessante secondo me rispetto al periodo che stiamo vivendo, al periodo soprattutto di emergenza che abbiamo vissuto nei primi mesi di pandemia, è che l'argomento dell'attività fisica, del movimento, è stato abbastanza centrale in un momento in cui il punto centrale era la limitazione dei corpi per una questione di salute, appunto. Quindi tutto quello che riguardava la libertà individuale è stato messo in discussione per motivi giustamente di prevenzione di una pandemia in corso, però il come è successo, il come questo è stato trattato, ci ha fatto riflettere molto su quello che è poi la concezione del corpo e dell'attività fisica nella nostra società. Perché se prima della pandemia l'attività fisica veniva trattata un po' e spesso paragonata a quello che può essere un farmaco, quindi qualcosa che si assume per stare meglio, per avere degli effetti positivi sul nostro benessere, sulla nostra salute, che però richiama molto a quella concezione biologica e fisiologica del corpo, non dell'organismo, più che del corpo, tutta questa visione ci dava il messaggio: fare attività fisica fa bene alla salute, quindi tutti abbiamo la responsabilità di muoverci. Appena è scattata la pandemia e si è ribaltata la situazione, lo stesso messaggio di controllo e di responsabilizzazione è cambiato e si è creata questa situazione per cui chi utilizzava il proprio corpo, chi sentiva l'esigenza di utilizzare il proprio corpo anche nel rispetto delle regole stabilite dai vari decreti, quindi banalmente tutta la polemica che c'è stata su i runner, chi andava a fare la passeggiata, eccetera, questo meccanismo di disciplinamento e controllo che responsabilizza e colpevolizza le persone è diventato non potete fare sport perché state mettendo in pericolo l'intera nazione, quando ovviamente al tempo stesso abbiamo visto tutti quello che è successo, prima di chiudere le fabbriche, prima di mettere in sicurezza i lavoratori e le lavoratrici sanitarie, sono passate diverse settimane e non sempre è successo, ci sono stati molti casi assurdi come quello delle carceri che non credo si sia mai risolto in nulla di fatto, anzi forse è una delle emergenze più urgenti che andava affrontata e non è stato affrontato, il problema della casa, quindi senza fissa dimora, è stato accantonato senza trovare grosse soluzioni, tante emergenze e tante situazioni che, per le quali lo Stato doveva intervenire, ancora una volta la responsabilità ci è sembrato che venisse scaricata sulla responsabilità individuale e usando dei termini, dei linguaggi e discorsi che restringono attività fisica e salute proprio a una concezione strettamente individuale legata al corpo biologico, quindi all'organismo. Ah, questo è un discorso molto interessante, appunto questa visione pre-Covid del corpo attivo come corpo sano e desiderabile, del corpo passivo come corpo malato, quindi che non crea desiderio e che durante la pandemia si è ribaltata questa situazione, quindi il corpo sano era quello passivo, il corpo attivo era quello non solo poco sano ma che rischiava di contaminare tutta la salute pubblica. Sarebbe interessante anche tracciare delle prospettive, insomma delle traiettorie di come sarà il corpo sano post-Covid. Ritorniamo a il corpo in movimento o sarà un corpo diverso? Insomma, questo secondo me è un qualcosa su cui anche riflettere. Un'altra cosa su cui riflettevo con le vostre parole è che questo discorso che nasce da questo capitolo, l'ultimo capitolo, che nasce da un punto di vista, quindi una serie di riflessioni che nascono in Brasile, il Brasile che in realtà poi in questo momento è anche uno dei luoghi dove l'emergenza Covid in realtà non solo ha mostrato chiaramente differenze sociali ed economiche all'interno della società, ma come Bolsonaro e tutto il suo entourage stia negando il Covid, quindi sta fondamentalmente bloccando qualsiasi intervento di salute pubblica per colpire per esempio tutte le comunità indigene e in generale classi economiche più basse. Quindi è molto interessante questo rapporto che proprio si è creato in Brasile. Infatti una delle domande per cui poi volevo andare avanti era sul rapporto ad esempio tra sport, attività motoria cioè, pratiche di liberazione da alcuni disciplinamenti, soprattutto con l'ottica intersezionale, che spesso nello sport popolare è una visione che non riesce a essere completa, mentre voi affrontate questo tema insomma, che cosa ne pensate? Questo è uno un po' dei temi del primo capitolo. Sì, rispetto a questo c'è da dire che riprendendo un po' l'introduzione del primo capitolo, che in realtà lo sport è comunque diciamo anche come dire, l'educazione fisica, le scienze motorie eccetera, hanno da sempre avuto una relazione con i movimenti sociali, alla luce anche di quello che diceva Leonardo prima rispetto alla questione della salute. In realtà c'è da dire, non in Italia ma diciamo nel mondo, ok, hanno sempre avuto delle relazioni. Infatti quel capitolo va un po' ad indagare rispetto a queste relazioni e in particolar modo ne andiamo a rintracciare tre. Uno che è una rivista nata nel 68 in Francia e che poi proseguirà lungo tutti gli anni 80 anche fino agli anni 90, molto interessante. Tra l'altro c'è da dire che uno dei capitoli di Microfisica del Potere che è stato pubblicato in Italia, che si chiama Corpi Potere, di Michel Foucault, è esattamente tratto da quella rivista. Cioè, come dire, era anche come dire, una rivista che provava a interfacciarsi anche con tutto quello che è stato poi l'onda dell'avventura della filosofia francese, della quale noi peschiamo molto, diciamo. Poi un'altra è stato sicuramente quello che è stato il movimento in Brasile, quindi quello che diceva prima Leonardo. Addirittura è importante sottolineare alcuni passaggi, cioè in Brasile si è avuto addirittura una critica talmente radicale all'educazione fisica con disciplina dei corpi, che è questo movimento nato dentro scienze motorie, dentro l'educazione fisica, ha bloccato l'obbligatorietà dell'educazione fisica nelle scuole. Siccome l'educazione fisica nelle scuole dentro una dittatura militare era un terreno di controllo, di disciplina, eccetera, e loro hanno posto, diciamo, delle resistenze proprio sull'obbligatorietà di questa disciplina. Quindi, come dire, anche contro un ragionamento che può essere tipo corporativo. E la terza parte è invece sui cultural studies, che è un ambito, diciamo, un po' più ampio, di natura anglosassone, e che in realtà convergono molto con la questione brasiliana, perché all'interno della pedagogia Freire e poi tutta una serie di pedagogisti che successivo a Freire pescano, diciamo, un po' in quello che è stata l'avventura dei movimenti sociali in Brasile, e invece tutto quello che erano una serie di critiche che venivano poste per esempio dagli studi postcoloniali ai queer studies, cioè, quindi, come dire, si è avuto sempre un confronto tra queste due parti. Quindi diciamo che in questi tre movimenti abbiamo un po' le radici anche del discorso che stiamo provando oggi a porre. Poniamo oggi questo discorso con una serie di trasformazioni radicali, però ovvio, e perché ci sono tutta una serie di questioni che si sono modificate nel tempo. Sicuramente, per esempio, lo sport è una di quelle cose che ha mutato con più radicalità nel discorso, sia da una parte del discorso neoliberale, diciamo, sia da una parte dal discorso di chi magari lo pratica come momento per liberare la propria vita, diciamo, come spazio. E su questo noi come collettivo ci stiamo provando ad interrogare e di autointerrogarci a partire da una coricerca, però sicuramente quello che risalta un po' all'occhio rispetto al discorso sportivo è che con una società, diciamo, che va verso neoliberale, che produce della competizione a tutti i livelli. Tant'è vero che anche in pedagogia non si parla più di esperienza, ma di competenza, cioè come il soggetto può competere sul mercato del lavoro con quella esperienza acquisita. E questo qui è molto evidente, perché addirittura questo termine, diciamo, non è stato nemmeno coniato all'interno di una discussione scientifica, ma viene proprio da tutta una serie di chi governa, diciamo, in maniera economica le strutture che ci determinano in parte. E quindi da una parte abbiamo tutto un discorso sulla competizione, quindi bisogna competere a tutti i livelli, eccetera. Lo sport naturalmente in questo è un veicolo adatto, in cui in un momento anche di tempo libero puoi produrre quel tipo di ragionamento, di competizione. E questa qui era una cosa che era già stata posta anche a inizio Novecento, in realtà, da tutta una parte di marxismo che vedeva lo sport come il male assoluto. Okay? E anche quella rivista che citavo prima, nata in Francia, in realtà poneva lo sport come il male assoluto per qualsiasi tipo di ragionamento politico. Quindi come una pratica che non si può utilizzare per trasformare. Okay? Invece in realtà, quindi, da una parte c'è questa spinta verso la competizione tout court, dall'altra in realtà negli ultimi 20 anni anche in Italia abbiamo visto una grande crescita del movimento dello sport popolare, okay? che non pone lo sport come il male assoluto, anzi la vede sempre di più come una pratica trasformativa. Naturalmente, per uscire da quel discorso neoliberale, okay, diciamo di competizione, è molto importante continuare ad interrogarsi sulle nostre pratiche. Una delle cose, per esempio, che ci siamo interrogati era la questione della meritocrazia. Per esempio, lo sport porta avanti tutto un discorso di meritocrazia, no? Invece volevamo interfacciarci con una questione di intersezionalità, per poter leggere anche quelle che sono le discriminazioni che non ci fanno partire tutti dallo stesso piano. Cioè la logica dello sport è che tutti partono dallo stesso punto, non è per esempio una logica che secondo noi può essere ripresa da un movimento sociale quale lo sport popolare, perché non tutti partiamo dallo stesso piano naturalmente. E quindi l'apporto, diciamo, che l'interrogazione che ci stiamo ponendo in questi ultimi anni, soprattutto all'interno del Festival Sprint, è quella proprio di porre l'attenzione sulle discriminazioni e su come i corpi vengono fatti poi competere. Okay? E questo qui, per dire, faccio un esempio perché altrimenti rischio di essere un po' confuso. E spesso si parla, per esempio, di questioni legate alla differenza di genere, gender gap, no? Quindi come, diciamo, il corpo maschile sia diverso da quello femminile, fondamentalmente. E spesso questo qui è una divisione che purtroppo pervade anche all'interno di palestre che magari su alcune questioni sociali sono anche molto vicine a noi. Allora, la questione, per esempio, rispetto a tutto questo, è interessante andare a vedere perché un corpo femminile è diverso rispetto a un corpo maschile, anche ad alti livelli. Banalmente, facendo anche una disamina delle metodologie d'allenamento, notiamo che se per l'individuo, no? come maschio, abbiamo tutta una serie di metodologie che già dagli anni 30, diciamo, portano avanti tutta una serie di questioni, per la donna abbiamo un interessamento da parte del mondo sportivo estremamente recente, parliamo degli anni 90, quindi, come dire, una personalizzazione anche del lavoro che si compie all'interno delle pratiche sportive è molto diversa, quindi che produce anche una differenza di partenza, oltre a tutta una serie di differenze relative all'oppressione sociale, naturalmente. Certo, certo. Ma è interessante anche, poi interessante non solo la questione di competizione, ma anche proprio la questione del concetto di vittoria e di sopraffazione in questo ambito, che nello sport popolare secondo me appunto c'è bisogno di investigare al meglio. E un'ultima riflessione che nasce sempre da uno dei capitoli, quello di Nicola De Martini, cioè una serie di pratiche messe in campo in ambito urbano, in questo caso era il parkour a Torino, ma la cosa secondo me è molto interessante in questo momento post come? Parkour e capoeira. Parkour e capoeira, sì. No, la questione che volevo porre era in questo periodo, come dire, post lockdown, in cui molti si sono riversati fuori, però allo stesso tempo c'è una difficoltà nel trovare, nel poter accedere alle strutture dove per esempio poter ripraticare sport, quindi c'è anche un po' una ricerca di nuovi spazi urbani dove poter fare attività sportiva collettivamente. È molto interessante come lo sport popolare, che nasce in realtà di solito da occupazioni o da autorecupero di strutture, possa intersecare questo desiderio collettivo anche intersecandolo anche con la riscoperta di luoghi urbani sconosciuti o che possono essere ripresi, no? Ma l'idea che mi veniva in mente era anche non solo in ambito urbano, ma tutte quelle pratiche, ad esempio di escursionismo e cose del genere, che in questo momento possono ritornare ad essere una pratica collettiva molto interessante. Non so se che ne pensate su questo. Ma secondo me è veramente interessante non solo stare a vedere quello che sta succedendo e che è successo in questi mesi, ma anche cercare di immaginarsi comunque anche dall'interno di realtà sportive popolari e non come stanno cambiando le cose, come ci si sta adattando a volta per volta comunque a quello che, che succede sia in termini di normative e decreti, sia in termini fondamentalmente di limitazioni che ci si pone personalmente per tutelare comunque la salute nostra e dei collettivi, dei gruppi di cui facciamo parte, perché comunque pare che siamo in una fase, insomma, di uscita dall'emergenza, ma penso che il chiedersi che cosa vuol dire per noi, per ciascuno di noi, per, appunto, per anche come collettivo, non soltanto come individui, passare per questa emergenza sanitaria, che poi è anche sociale, economica, insomma, e come cambiare le nostre pratiche, come modificare le nostre pratiche in base a questo. E la cosa degli spazi, la questione degli spazi, noi ci siamo, da quando abbiamo iniziato a interrogarci sullo sport popolare, quindi anche ha iniziato appunto questo percorso di ricerca che stiamo portando avanti e interrogarci sulle nostre pratiche, la questione spazi è venuta fuori in maniera insomma, preponderante fin da subito, in relazione appunto al valore che avere uno spazio, poter attraversare o meno uno spazio ha per lo sport in generale, ma soprattutto per lo sport popolare, che ha sempre dovuto sgomitare per avere i propri spazi e la propria legittimità rispetto magari a percorsi più istituzionali o più classici, insomma. E la cosa interessante, appunto, secondo me, è che adesso molti altri percorsi sportivi si trovano un po' a farsi le stesse domande che in realtà lo sport popolare si fa, e non solo le stesse domande, anche a voler rivendicare le stesse cose che diciamo, noi siamo un po' abituati a fare da più tempo, forse, all'interno del circuito dello sport popolare. Quindi iniziare a guardare quegli spazi della città che dovrebbero o potrebbero essere di tutti, quindi potrebbero riconfigurarsi anche come spazi di socialità, di attività sportive, ricreative, anche rispetto al tema, a tutto il tema dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti che appunto da diversi mesi sono in casa, con le scuole chiuse, con tutti quelli che sono, diciamo, i luoghi di aggregazione sportivi chiusi, e quindi si comincia a guardare gli spazi della città con un occhio un po' diverso, e chiedersi come vengono usati o non usati certi spazi. Io penso che qua a Bologna abbiamo diversi esempi di spazi non sfruttati oppure svenduti all'iniziativa privata, alla speculazione, ma penso in tutte le città italiane, insomma, ci siano diversi esempi di questo. E se come sport popolare c'è sempre stata la rivendicazione di riottenere quegli spazi, di riappropriarsi di quegli spazi e renderli spazi di tutti, anche e soprattutto attraverso lo sport, adesso secondo me potrebbe essere una buona occasione per allargare questa esigenza, questa spinta, e renderlo appunto quel discorso di diritti, insomma, diritto di tutti ad avere uno spazio, a vivere, a attraversare un proprio spazio e a fare sport. Senza dubbio, cioè le tematiche che ha creato la pandemia, un po' come questo vaso di Pandora che si è aperto, ce ne sono tanti. Io pensavo anche a uno che in realtà viene spesso non affrontato, che voi probabilmente avete affrontato proprio nel costituirvi associazione, che è quella poi di chi lavora in ambito sportivo, e qui secondo me si apre un altro capitolo che non basterebbe una discussione di un'intera giornata soltanto a porre i problemi che questa pandemia ha fatto vedere perfettamente, cioè sono stati probabilmente il primo settore colpito dal punto di vista temporale, sono stati i primi a essere chiusi, quindi chi lavora in ambito sportivo sicuramente è rimasto bloccato e chissà per quanto altro tempo rimarrà bloccato per questioni pandemiche. Io penso che, insomma, abbiamo affrontato molti argomenti, più o meno tutti quelli affrontati nel libro che ricordo, Le pieghe del corpo, di Antonio Donato, curato da Antonio Donato, Leonardo Tonelli, Edoardo Galac, edito Mimesis. Non so se avete altro da voler aggiungere, se no io vi ringrazio. ci sentiamo al prossimo libro. Grazie. Prima, magari, anche prima. Grazie per l'invito. Ciao, grazie.